Storie de no altri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Amici ed amiche, buonasera. Eccoci qua per passare un'oretta in compagnia come ogni domenica. Salutiamo il mio partner. Ciao Antonio. Ciao Gesù, buonasera e un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera, ricordiamo la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. E stasera abbiamo un ospite, vero Antonio? Naturalmente, il signor Adriano De Lazzari. Buonasera Adriano. Buonasera Adriano. Buonasera. Buonasera. Allora, lei stasera di che cosa ci parlerà di bella? Avrei delle poesie in dialetto trevigiano, poi in italiano e, se possibile, anche in francese. Benissimo, benissimo. Ecco. Benissimo. Beh, allora facciamo così. Prima ci ascoltiamo una canzone e poi diamo la parola a lei. Benissimo. Come da nostra abitudine, una monografica, chiamiamola così, da Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, badabadabba. Sono le quattro e mezza ormai, non ho voglia di dormire. Quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Ed eccoci in studio. Allora, prima di dare la parola al nostro ospite, leggiamo un breve profilo biografico. L'itinerario. Adriano De Lazzari presenta il suo itinerario di vita. Si tratta di un viaggio diviso in tappe, che inizia dalla nascita avvenuta a Montmorency, una ridente città a pochi chilometri da Parigi. Dopo la permanenza di 8 anni nel paese d'Oltralpe, avviene il rientro in Italia in pieno periodo bellico, durante il quale Adriano è testimone di eventi drammatici. Dopo gli studi si avvia nel campo della decorazione, in modo speciale in qualità di vetrinista decoratore, ottenendo riconoscimenti in Italia e all'estero. Intanto studia le lingue, ma nel contempo percepisce come sempre più sua la parlata veneta, che non conosceva il suo arrivo nella terra dei genitori. Così si slancia nello scrivere in dialetto trevigiano e presto i suoi componimenti vengono divulgati a mezzo stampa e alla radio. Ma anche il teatro lo attrae e inizia a recitare in compagnie teatrali di Venezia e di Treviso, con il risultato di portare a casa in breve tempo diversi premi. In veste di attore appare in televisione ed è tra l'altro protagonista di una puntata della trasmissione Forum di Rete 4. Ci riferiamo ora alla sua attività di pittore. Ebbene, non molto tempo fa, quando non mancava ormai molto che gli varcasse la soglia degli 80 anni, Adriano era stato invitato ad eseguire un grande affresco in una chiesa di Salvador de Bahia, in Brasile. Quando era arrivato sul posto, gli era stata premurosamente montata una consistente impalcatura e lui, munito di colori e pennelli, vi si era coraggiosamente arrampicato fino a un'altezza di 6-7 metri. Per un po' di tempo e per parecchie ore al giorno era rimasto appollaiato sull'alto ponteggio, portando infine a termine una grande, ammirata icona rappresentante il Cristo Pantocratore. Poi, al compimento del suo 80° genetliaco, tanto per non assopire i suoi interessi, ha deciso di partecipare a concorsi di poesia in lingua francese. Il circolo francofono di incontri letterari Écritoire et Encrier di Parigi gli ha già assegnato più di un premio. In quest'anno 2016, per esempio, ha ricevuto il premio speciale della giuria per l'originalità di una sua poesia. Qual è attualmente il desiderio di Adriano? È quello di poter donare un tempo di relax e, perché no, di divertimento agli ospiti delle case di riposo e a tutti coloro che vorranno assistere alle sue esibizioni, consistenti in sprazzi di luce proiettati su vicende umane intensamente vissute. Parliamo, insomma, di un itinerario permeato d'umiltà, ma proposto con un tocco di poesia e una pennellata di teatralità. La parola al nostro ospite. Bene, la parola al nostro ospite. Allora. Grazie. Dunque, potrei cominciare con una riflessione per quanto riguarda la poesia, cioè cosa significa la poesia per me. Ecco, cercherò di dirlo così. Il titolo è Lampi di luce, ed è in dialetto. Che gran conforto per l'anima mia quando un lampo di luce mi trapassa la mente, riscalda il mio cuor e diventa poesia. Se po le parole del componimento a botta calda su un tocco de carta e butto so, me par più sceto è il pensier e più diretto è il medir. Ma se me capita d'esser depresso o se intorno se scuro e cerco tentoni de trovare un spiraglio per sentirmi sicuro, non scrivo più, me metto a pregar. E l'Onnipotente, che de mi tutto sa, e me manda i suoi lampi, e me sciara la vita, perché che fa so peccà. Bella, bella. Beh, bella. Che fa so peccà. Non ha chiuso proprio fulmine. Ecco. Posso continuare? Sì, prego, sì, prego. Sì. Ben qui tanto per sorridere, magari anche un po' amaramente, sempre in dialetto, avanti del Rabalton. Aumenti dappertutto, zeccare la bistecca, servigi e te becca, te ciapi un gran multon. Al tuo supermercato che se tante sorprese, poteva fare le spese, te vuol circa un senton. Te spensi il tuo careo, ma dato che non pesa, co atto poca spesa, te va come un siton. Intanto sa te pensi, qua tutto se più caro, mi mando sull'amaro, ma non sei mica buon. Con l'euro non si scherza, te parte a pensionata e dopo ti imboeta te resti in un canton. E il mutuo, gas, squasse, benzina, non parliamo, e avanti così indemo, facendo un rabalton. Ma se rabalta tutti, oppure qualcuno no? Un dubbio mi logò, chi casca, se un teston? No, sei un teston purtroppo. Belle, una simpatiche. Una condizione comune, frizzanti proprio. Grazie. Vado pure avanti con qualche altro. Posso andare avanti? Sì, sempre. Sì. Allora qui andiamo invece in lingua italiana, lo svitato. È un'esperienza forte che ho fatto in campo spirituale. Come un bullone di ferro mi sentivo, ossidato, tenacemente incorporato in una putrella portante un solaio, diventato dimora del mio passato. Il dado di questo bullone l'avevo più volte racchiuso e sforzato fra possenti ganasce di chiavi inglesi. Ma il bullone non si svitava, anzi sembrava voler sempre più rimanere ancorato al supporto che risultava caricato di pene recenti e remote. Allora ho capito che da solo e con gli attrezzi miei avrei certamente continuato a faticare invano. E ho chiesto al Signore di mandarmi lo svitol, ossia un liquido sbloccante tale da potermi distaccare da un ieri che avevo ritenuto solamente mio e poter nel contempo incominciare a vivere un oggi riconosciuto pienamente suo. Bene. In trepidazione ho atteso. Sembrava che non mi avesse udito. Ma poi all'improvviso un flusso di lacrime elimina con amore donato. Così, allentato, per la prima volta mi sono trovato con le mani alzate ad elevare un inedito canto di lode. Inondato dalla pace e dalla gloria, dalla gioia, mi sentivo finalmente svitichiato fino alle profondità dell'io. Mi sentivo lo svitato di Dio. Ah, che bella fantasia. Poesia e tecnologia. Mi viene in mente Leonardo Sinisgalli così, ingegnere. Che bella. Okay. Vado pure avanti. Posso andare avanti? Sì, sì. Ecco, questa qui si riferisce all'ultimo concorso a cui ho partecipato del SIL? No, quello di Parigi, dell'Écritoire en Crier. Ah. E allora, però era in collegamento qua con il SIL, perciò si doveva fare una versione in francese e in italiano. Allora io, se permettete, ve la leggo in francese. Certamente, certamente. Io ho giocato tutto sul fatto dell'identità sonora delle parole, no? In francese la mer è il mare, e la mer, con una piccola differenza ortografica, è sempre pronunciato uguale. E ho giocato un po' su queste cose. Poi mi hanno detto, ma in italiano come farai quando la farai in italiano? E poi vediamo. Allora ecco qua, la mer è la mer. Dans la vie, il peut arriver que nous nous trouvions dans une mer orageuse. Parfois, nous naviguons vent debout par une mer calme qui, cependant, peut tout à coup se transformer dans une mer de difficultés. Ou alors, nous pouvons être loin, en pleine mer, et pourtant n'avoir nulle peur, parce que nous savons que Dieu peut rendre cette mer ridée, oui, mais seulement un petit peu. Comme elle est belle, la mer, dans son immensité, profitant de l'identité sonore des mots, et en parlant moitié pour rire, moitié sérieusement, on pourrait dire que l'affection dont une mère entoure ses enfants est immense aussi. Il est évident alors que le dévouement d'une mère dans ses soins à l'enfant est aussi vaste que la mer. Car grande et profonde est la mer d'amour et rien d'autre que celle donnée par une mère. Ecco qua la soluzione. Io ho capito poco. Adesso è la versione in italiano. Sì. Nella vita può capitare che ci troviamo in un mare tempestoso. Altre volte navighiamo col vento in poppa in un mare calmo che può tuttavia trasformarsi all'improvviso in un mare di difficoltà. E ancora, possiamo essere lontani in alto mare e comunque non aver paura, perché sappiamo che Dio può rendere quel mare increspato, sì, ma soltanto un pochino. Quanto è bello il mare nella sua immensità. Approfittando dell'identità sonora delle parole e parlando tra il serio e il faceto, si potrebbe dire che immenso è anche il mare e anche l'affetto che una mare rivolge ai figli, specificando subito che mare in dialetto significa madre. È evidente allora che la dedizione di una mare rivolta alla prole è estesa come il mare. poiché un grande, profondo mare d'amore e nient'altro è quello donato da una mare. Sì. Bella, bella, molto, un'altra poesia un'altra. Prima della chiusa, sì. Bene, facciamo una un po' per sorridere in dialetto. Sì. In ospedale. In ospedale a Treviso, un infermiere trafferando con afflebo che domanda a un maià in letto destirà perché da poche ore alla prostata opera. La tosa che prima era qua a tenere compagnia. Zia Sofia? No, risponde l'altro con una smorfia di dolore. Chi la è Maria? Sì, ho capito, ma mi vuoi sapere se a Zia Sofia? Quaglio, se non capisci non è mancanza mia. Insomma, continua l'infermiere, pronto intanto per spunciarlo con una siringa in mano. Lui proprio non vuol dirmi se qui a Tosa, beh davvero mi diria, Zè oppur non Zè Sofia. Ho detto che si chiama Maria, hai capito, non Sofia. Mo fammi un piacere, vattinne che tengo male assai. E da me, ai, ti prego, non ritornare mai. Simpatica. Molto, molto. E allora passiamo alla seconda canzone che è Non sarà un'avventura. Eccoci di nuovo in studio col nostro ospite al quale diamo la parola. Grazie. Dunque, vediamo un po', vorrei adesso un po' parlarvi di una mia brutta esperienza del passato, cioè riguarda appunto il cancro. Io adesso sono un sopravvissuto dal cancro, sono stato operato, poi ho fatto le mie terapie e adesso sono, mi hanno ritenuto completamente guarito, grazie a Dio. Però vi voglio parlare appunto degli effetti collaterali della terapia qui. Allora, ecco qua, titolo: c'è qualcuno. C'è qualcuno che sa cosa vuol dire sopportare gli effetti di una terapia improntata per fermare o almeno ostacolare l'arrogante avanzata di un esercito d'occupazione costituito da cellule maligne? Parliamo insomma della battaglia contro quel cancro che, senza chiedere il tuo permesso, ha deciso improvvisamente di installare il suo quartier generale proprio all'interno del tuo corpo. C'è qualcuno che sa cosa significa essere investito da vampate di calore seguite da intense sudorazioni e sentirsi bagnato come un pulcino dopo un improvviso acquazzone in una giornata d'estate all'aperto? E che dire delle notti trascorse camminando in lungo, in largo, dentro casa, nel tentativo d'opporti all'assalto rabbioso di crampi e formicolii che vogliono dettare legge alle tue gambe? Oppure c'è qualcuno che sa o può immaginarsi cosa vuol dire percepire un dolore lancinante alla schiena o avvertire delle pugnalate nelle profondità delle ossa? Questa cura, inoltre, ti offre ogni giorno su un piatto di portata insonnia, orticaria, disturbi della vista, asma, vertigini e palpitazioni. Tutto questo ben condito con il sale della fiacca e con l'aceto della depressione, mentre ictus e infarto sono intanto in agguato. Ma nonostante la presenza dello sgradito ospite roditore che tento comunque di stanare, io, con la piccola porzione di fede che ancora mi resta, voglio agire per il meglio della tormentata storia mia, fino all'ultima puntata, e così sia. Bello. Una rappresentazione bello, proprio, che sì, è quello che serve, penso, per dare proprio corpo alla strategia di difesa, di autodifesa, cose sì, di questo bello, tipo. Bello. Molto, molto bello, molto bello. Commovente. Posso continuare? Sì, certamente. Sorridiamo un po'. Questa è stata commentata anche in Francia, perché ho fatto la versione in francese. Ve la dico in francese e poi in italiano, tanto è corta. Sì, sì. Fils d'ancien, crie un moment en colère contre son enfant. Les marmots voudraient au moins savoir si son père est ancien de race ou un bâtard. Alors, quand il rencontre ancien, d'abord il le salue d'un signe de main, puis il essaie d'aboyer et enfin, qui sait pourquoi, s'approchant de l'animal à voix basse et lui dit « Mais voilà, coucou, papa !» In italiano: figlio d'un cane, grida una mamma arrabbiata al figlio. Il marmocchio vorrebbe sapere se suo padre è almeno un cane di razza o un bastardo. Allora, quando incontra un cane, prima lo saluta con la mano, poi tenta di abbaiare e infine, chissà perché, avvicinandosi all'animale, gli dice sottovoce: eccomi qua, ciao papà! Che carina! Oh, molto carina, sì. È sempre una lezione in ogni caso. No, sì, sì. Ma sì, infatti il commento che hanno fatto in Francia dicono: ma tanti genitori dovrebbero riflettere quando parlano con i figli, stare ben attenti alle parole. Veramente, sì. Ecco. Poi vediamo, e qui ho preso un premio ancora non l'anno scorso, 2 anni fa mi sembra, ed era in, come dire, il tema era Montmartre, e infatti anche la premiazione si è svolta lì. È un quartiere che io amo particolarmente. Quando vado a Parigi mi piace tanto stare lì a Montmartre, perché è un po' così, il quartiere degli artisti, sì, e poi sembra una cosa non attuale, sembra di ritornare indietro, sì, un po' di nel altri tempo tempi, sì, sì. Nonostante sia tutto più modernizzato, però ancora mantiene quell'impronta, l'esprit du temps. E allora, se permettete, io prego, la leggo. Prego. Dopo posso leggere nelle due lingue? Sì. Certamente. Allora, j'écoute la chanson sur le ciel de Paris, je rêve les yeux ouverts, et en un éclair, je me trouve à Montmartre. Devant moi, la vieille chère église de Saint-Pierre, qui en a tellement vu, depuis qu'en 1534, Ignace de Loyola fonda la Compagnie de Jésus. J'adore les ruelles pittoresques de Montmartre, voilà la place du Tertre, avec ses artistes de rue et ses marchands ambulants. On rêve et on respire la magie de la peinture dans ces lieux de prédilection de tant de peintres tels Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Modigliani, Picasso. Oh, tumultueux Montmartre, tellement plein de vie, tu sais toutefois faire cadeau d'un coin tranquille. Quand nous nous rendons dans ton petit cimetière où, entre autres, Stendhal, Dumas fils et Degas reposent dans la paix du Seigneur. Belle butte de Montmartre, enfin je passe à côté du Moulin Rouge, d'où surgit la voix si particulière d'Edith Piaf chantant « Sous le ciel de Paris ». Et moi, sous ce ciel, je me sens vraiment, vraiment à mon aise. Je me sens chez moi, sous ce ciel de Montmartre. Ed ecco la versione in italiano. Ascolto la canzone sotto il cielo di Parigi. Sogno ad occhi aperti e mi trovi un baleno a Montmartre. Davanti a me la vecchia cara chiesa di Saint-Pierre, che ne ha viste tante da quando nel 1534 Ignazio di Loyola qui fondò la Compagnia di Gesù. Adoro le viuzze pittoresche di Montmartre. Ecco la Place du Tertre, i suoi artisti di strada e i venditori ambulanti. Si sogna e si respira la magia della pittura in questo luogo prediletto di tanti pittori come Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Modigliani, Picasso. Oh, vivace Montmartre, così piena di vita, tu sai tuttavia regalarci un angolo tranquillo quando ci rechiamo nel tuo piccolo cimitero dove, tra altri, Stendhal, Dumas figlio e Degas riposano nella pace del Signore. Bella collinetta di Montmartre. Passo infine accanto al Moulin Rouge, donde irrompe la voce inconfondibile di Edith Piaf che canta Sotto il cielo di Parigi. E io, sotto questo cielo, mi sento veramente a mio agio. Mi sento a casa mia, sotto questo cielo di Montmartre. Bella. Una pennellata impressionista. Sì, molto bella. Abbiamo spazio per un'altra poesia e poi andiamo ad ascoltarci il brano musicale. Sì. Amato tricoloro, arrivando in albergo in cui a terra straniera si vedeva tante bandiere che sventolava, ognuna de nazione diversa, e tutte esposte in onore degli ospiti del cosmopolita ma per sperduto isolato hotel. Scrutando ben però si poteva constatare che della bandiera italiana neanche l'ombra si vedeva, segno forse che nessun compatriota mio aveva prima di me messo piede in quel foresto e remoto posto, tanto disperso che in mezzo ai crepani mi pareva d'essere confinato. Ma che emozione che lo provà, che tuffo al cuore che lo sentio, quando più tardi, dopo aver visto e registrato i miei documenti, era partito l'ordine di collocare in bea mostra l'italico amato tricoloro. Allora non mi son più sentio un anonimo viaggiatore che si trovava fuori per il mondo senza identità, ma un italiano che amava il suo paese e che, seduta stante, ne celebrava commosso e fiero l'unità. Oh. No. Benissimo, allora ci fermiamo per il prossimo brano musicale che io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio.

che entrino la notte e il giorno, la pioggia azzurra, la sera, il pane rosso dell'aurora, la luna, mia dolce amante. Che l'amicizia non trattenga il passo sulla soglia, né la rondine il volo, né l'amore le labbra. Nessuno, la mia casa e il mio cuore mai chiusi, che passino gli uccelli, gli amici, il sole e l'aria. Ecco qua, dopo questa digressione spagnola passiamo di nuovo passiamo al nostro ospite. Sì, perché... Mi riferisco alla primavera, anche se qua siamo un po' ma insomma è una, la ricordiamo lo stesso. Una riflessione che avevo fatto questa primavera. Stamattina a buon'ora ero ancora tutto in tabarà, maillon, sciarpa, giubbotto, imbottio, baretta e calzetti che più grossi non se puoi. Sì, perché questa è d'inverno. Le armi che uso per combattere contro quel freddo can che puntiglioso e vuole infiltrarsi per potermi ingiassare, passando attraverso le fessure dei miei muri difensivi fatti di lana e di altri caldi materiali. Mi son però presto reso conto che non dovevo più aver paura della brosa, del caivo e neanche di quell'ostra del gelido vento dei Balcani che di solito mi volevo investire per farmi naturalmente un pochettino patire. Infatti, tra l'erba ancora mesa rinsecchia, che gli era ben destirà, un tapeo di violette neonate. Che bello! Più in là, altri fiori piccinini si mettevano in mostra con umiltà davanti a me, che parva darli meglio e mi ero intanto inzenociato. Dopo, alzando gli occhi, ho visto un vecchio salgher in grespa, ma che de giovani tenere foglie se era già rivestito. Insomma, ho capito che stava sciopando la primavera, sparpagliando dappertutto colori e profumi. E io penso solo al fatto che la natura ancora le tiene in testa l'inquinamento, ai scoasse e ai veleni che produciamo e che sempre più rischia di soffregarne. Così, ancora in zenocià, contento e riconoscente per ste giornate piene di luce e di dolce tepor, non ho potuto far altro che dire: «Te ringrazio, mio signor!» Bene, proprio un canto alla vita. Sorridiamo un po', magari se è possibile, col titolo è Ciò, cioè. Ah, ciò, cioè. In italiano spesso si abusa del cioè. In trevigiano invece succede con il ciò. Un risultato c'è, il suono ciò, cioè. Sentite, ciò ma sì, e ciccio ciò però, perché capisci no che voglio dire con ciò, ma certo ciò, assolutamente sì, cioè. Aspetta un attimino, che intendi tu con ciò? Semplicemente, pur nonostante ciò, piuttosto che ciò non di meno tu, comprendi oppure no? Or dunque ti dirò, per questo e per quant'altro, il fatto sai qual è? Che io, beh, cioè, non ti capisco ciò. Acrobazie linguistiche. Che bello, sì. Per fare un po' di sorridere. Allora, prima abbiamo parlato della primavera, sì. Adesso invece ci avviciniamo al Natale e così sì, io sono già mi vedo già con la festa natalizia proiettato. Sì, ma mi vedo già con la festa natalizia che è già passata. E ora e c'è la sorpresa. Il titolo è La sorpresa in dialetto. Dice il detto che l'Epifania, ecco siamo a Epifania, dice il detto che l'Epifania tutte le feste a se porta via. Così, passata a Befana, in tante famiglie i desfa e i rimette in magazzin e decorazione preparare per la natività. Albero di Natale, sempre stesso, essendo artificiale, festoni, ghirlande, fiocchi, bae e scritte di auguri in diversi modi elaborare. Per ultimo, ma primo per importanza, gli si mette a sbaraccare il presepio. E qua salta fuori a sorpresa per genitori e fiori, che si trova davanti una scena che nessuno si aspettava. Nella grotta, infatti, tra quelle di Maria e San Giuseppe, vien trovare due identiche statuine di Gesù bambino. I piccinini guarda e resta a bocca aperta, con in viso una espressione di chi voglia tanto avere una spiegazione. Infine, un de loro che domanda a suo papà: ma perché non te nega mai dito a noi altri cei che a Madonna che aveva avuto do gemei? L'umiltà. Se me vado intorno che ne vedo poca di umiltà. Ma quando mi accorgo che una persona di sicuro raga, la è una festa grande per il mio cuore, perché con l'umiltà sicuro sono d'aver trovato una rara intelligenza e una gran bontà. Qualità rara, l'umiltà effettivamente. Sì. Domanda e risposta in dialetto trevigiano. Già da un tocco mi ero domandà cosa sei che mi può dare la vera pace e l'armonia in modo da guardarmi intorno con una scianta di allegria. Ecco che arriva ben più in là di quello che sarebbe il mezzo del cammino della mia vita, mi son risposto che, per esempio, non devo più di tanto far notare dei miei prossimi difetti, perché go infin capio che guardando ben ognuno a sto mondo ha il suo lato buon logà, a parte le magagne, che non manca mai, come ben si sa. Allora, mi cerco adesso di dar tanto amore agli esseri umani, a quei che mi sta vicini e anche a quei che ostinai da me vuol star lontani. Così, penso e spero che se mi sforzo di espandere il suo amore e armonia, chi guadagnerà se non altro sarà l'anima mia. Ecco, sì. Questa considerazione diciamo filosofica. Noi ci fermiamo un attimo per l'ultimo diciamo brano musicale, che è La luce dell'est, una delle più belle canzoni di Battisti per me. Respiro ormai si dirada perché davanti a me un sole quasi bianco sale ad est. La luce si diffonde, Dio, questo odore di funghi faccio mio, seguendo il mio ricordo verso est. Piccoli stivali e sopra lei una corsa in mezzo al fango e ancora lei, poi le sue labbra rosa e infine noi. Scusa se non parlo ancora slavo, mentre lei che non capiva disse bravo e rotolammo fra sospiri. Poi seduti accanto in un'osteria, bevendo un brodo caldo che follia, io la sentivo ancora profondamente mia. Ma un ramo calpestato ed ecco che ritorno col pensiero e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me. A te che sei il mio presente, a te la mia mente, come uccelli leggeri, fu con tutti i miei pensieri. Per me (susurra) Le foglie ancora bagnate lasciano fredda la mia mano e più in là un canto di fagiano sale ad est. Qualcuno grida il nome mio, smarrirmi in questo bosco, oddio, per leggere in silenzio un libro scritto ad est. Le mani rosse un poco ruvide, la mia bocca nell'abbraccio cercano, il seno bianco e morbido fra noi. Dimmi perché ridi. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite per l'ultima tranche di questa trasmissione multilingue, diciamo, ecco. Spagnolo, francese, italiano. Bene, allora vi propongo qualcosa in francese e poi anche in italiano. Dunque, la vie. Cosa è la vita? Cosa è la vita? Che scresse la vie? O che è la vita? What's the life? Se commencé avec mon dialecte de Trévise, qui est sûrement ma langue maternelle, et puis, au fur et à mesure que j'apprenais d'autres idiomes, je me suis encore et toujours demandé qu'est-ce que c'est la vie. Maintenant que je me fais vieux et que je me rappelle les mots des saints Jean de la Croix, je pourrais dire la vie est un parcours où le bien que nous avons fait sera enregistré et en définitive nous serons jugés selon l'amour que nous avons donné. Cela jusqu'on parvienne à la ligne d'arrivée qui marquera la fin de notre passage sur la terre et en même temps le début d'un chemin dans l'allée d'une vie différente mais qui sera, on l'espère ainsi, aimable et plus que jamais véritable. Versione in italiano. Cosa c'è la vita? Cosa c'è la vita? Qu'est-ce que c'è la vie? O che è la vita? What's the life? Ho cominciato col mio dialetto trevisano, che è sicuramente la mia madrelingua, e poi man mano che ho appreso altri idiomi, mi sono ancora e sempre domandato cos'è la vita. Adesso che sono avanti negli anni e che mi ricordo le parole di San Giovanni della Croce, potrei dire: la vita è un percorso dove il bene che abbiamo fatto sarà registrato e noi, in definitiva, saremo giudicati secondo l'amore che abbiamo donato. Questo fino a quando arriveremo al traguardo che segnerà la fine della nostra corsa terrena e nello stesso tempo l'inizio d'un cammino sul viale d'una vita diversa, ma che sarà, così si spera, amabile e più che mai vera. Sì, anche sì. Questa considerazione chiaramente considerazione. Ci porta alla speranza cristiana. Ecco. Sì, esattamente. Sì. Poi, allora, posso continuare? Sì, sì, prego. Vediamo un po'. Beh, qua l'ho in francese e in italiano, ma magari ve la dico solo in italiano. È curtissima. Il combattente, sempre sul tema di prima, del cancro. Il malato di cancro è un combattente che giorno dopo giorno e in ogni modo lui di morire ragioni non ne sente. Il fatto è che pur appeso ad un chiodo in questo mondo ancora vorrebbe restare per andare avanti e tutti i suoi cari amare. Così se sente che il Signore lo chiama, prima gli risponde «Eccomi che vengo», ma dopo, pur sapendo che Dio lo ama, fretta non avrebbe d'entrare nel regno. E per la poca fede che lui ha, spera soltanto d'essere perdonato. Sì. Ecco qua. Non so, se la posso leggere anche in francese? Sì, naturalmente. Sì. Le malades du cancer est un combattant qui vive au jour le jour et de quelque façon que ce soit, lui, de mourir, n'écoute pas la raison. L'effet est que bien qu'accroché à un clou, il voudrait encore rester en ce monde pour avancer et serrer dans ses bras toutes les personnes aimées. Alors, il ressent le Seigneur qui l'appelle. D'abord, lui répond « Mais voilà, j'arrive !» Mais ensuite, bien, se sent que Dieu l'aime. Il n'a pas hâte d'entrer dans le royaume des cieux. Et pour la mauvaise profession de foi qu'il fait, il espère seulement d'être pardonné. È veramente così. Eppure, mamma mia. Una bella lingua anche il francese, però dolce. Sì, sì. È sì. Dolce. È vero. Tedesco invece è piuttosto duro. Dunque, vediamo un po'. Cosa abbiamo qua? Beh, anche qui, se permettete, in italiano e in prego. Francese. Cominciamo con... No, facciamo il francese. Claire, c'est aujourd'hui à la mode de couper la parole à quelqu'un en disant « Bien, ça c'est clair ?» L'autre jour, je rencontre un type et en parlant de tout et de rien, un jugement vient être mis sur la crise. Il ne semble pas intéressé, mais il s'empresse à chaque seconde de me répéter « Oui, c'est clair ?» Je m'interromps et puis je reprends. Il me bloque et dit « C'est clair ?» En effet, je continue. Avec la crise toujours à la une, on peut dire comme en Italie, regardez quel clair de lune. Il me dit juste il est clair et je veux dire que tout est clair. Je poursuis exaspéré. Monsieur, que ce soit clair, maintenant à mon avis, rien n'est clair autour d'ici. Et ce n'est pas par hasard que tout de suite je déclare qu'il fait noir comme dans un four. Lui, il pense d'un air rêveur. Fait-il noir, il me demande. Puis il décrète, oui. C'est vrai, il fait noir, tout est noir. C'est bien clair, clair. In italiano. Si usa oggigiorno troncare il tuo discorso con «Beh, questo è chiaro». L'altro giorno incontro un tizio e parlando del più e del meno un giudizio viene espresso sulla crisi. Non mi sembra interessato, ma si affretta ogni secondo a ripetermi «Sì, chiaro». Mi interrompo e poi riprendo. Lui mi blocca e dice, è chiaro? In effetti, proseguo, con la crisi sempre in prima pagina, si può dire, guardate che chiari di luna, mi fa giusto, sono chiari? Voglio dire che tutto è chiaro. Io rincalzo esasperato, signore, che sia chiaro? Per me adesso niente è chiaro. E non per caso che subito dichiaro che qui intorno è buio pesto. Lui ci pensa trasognato. Buio pesto, mi domanda. Poi sentenza, vero e buio, tutto buio, è ben chiaro, chiaro. Ah, che bel gioco di parole. Sì, bello, bello. Ecco qua. Posso continuare? Sì, sì, prego. Allora, vediamo qua cosa abbiamo. Ah, sì. Un bon. Pour moi, la poésie est comme l'onguin, celui-ci qu'une amie m'a conseillé. Je parle d'une pommade à l'arnique qui me soulance pendant la nuit quand les aguerris crampes m'attaquent. La poésie, donc, c'est se faire un remède pour prendre les pas sur les crampes de nature spirituelle. Cela arrive quand j'arrête mon attention sur les œuvres des bien-aimés auteurs qui se rencontrent sur le livre. Mais quelquefois, mes vers même peuvent devenir un remède lénitif, un remède de menace, mais pas pour cela dépourvu d'efficacité. Car si la poésie de mon endroit intérieur fermé réussit à ouvrir un passage pour sortir en plein air, en exprimant mes sentiments, eh bien, elle ne peut que se révéler un baume pour l'âme. Elle n'est peu ainsi parvenu de mon intimité profonde qu'affirmer un petit peu le monde. In italiano, un balsamo. Per me, la poesia è come l'unguento, quello consigliato da un'amica. Parlo d'una pomata all'arnica che mi dà sollievo quando di notte m'assalgono agguerriti crampi. La poesia dunque sa farsi medicina, sbarrando il passo ad altri crampi di natura spirituale. Questo accade se mi soffermo sulle opere d'amati autori che sui libri incontro. Ma qualche volta anche i miei stessi versi diventano un rimedio lenitivo, un rimedio fatto in casa ma non privo d'efficacia. Perché se la poesia dal mio sito interiore riesce ad aprirsi un varco e uscire all'aria aperta per dar voce ai miei sentimenti, ebbene, non può che rivelarsi un balsamo per l'anima. Non può, così giunta dal profondo, che ingentilire un pochino il mondo. Sì, è vero. E niente, qui abbiamo spazio adesso per i saluti, però prima volevo un po' chiedere al nostro ospite se teatro e poesia, che sono due ambiti nei quali si muove, eccetera, hanno entrambi questa funzione terapeutica, questa funzione di rappresentazione della vita. Ah, senz'altro. A me personalmente il teatro ha aiutato molto anche per rinforzarmi, diciamo, su certi aspetti, per esempio per quanto riguarda la timidezza, no? A volte sì, mi ricordo che la prima volta che sono salito su un palco mi tremavano le gambe, adesso. Fortunatamente non succede più, cioè mi ha molto aiutato sotto questo aspetto, insomma, il teatro. Cioè, questa assuefazione, diciamo, a rappresentare se stesso. Porsi davanti al pubblico senza tanti patemi d'animo, insomma, ecco, saper gestire un po' il proprio tempo davanti agli altri e mi ha dato molto. E poi c'è la grande soddisfazione quando ricevi l'applauso, quando vedi che hai recitato bene la tua parte, insomma, ti aiuta molto. Aiuta molto. In particolare, presumo, nei confronti di questi ospiti delle case di riposo ai quali si rivolgere. Adesso avete programmi da andare per Natale? Adesso non so, mi deve saper dire il regista, che è mio, che è quello che un po' dirige la cosa per quanto riguarda le case di riposo. Siamo stati alla casa di riposo di San Pelaio ultimamente, siamo stati già diverse volte. Io sono stato un paio di volte con le mie poesie e poi siamo andati anche con pezzi teatrali vari, insomma. Credo che ci sia una grande gratificazione parte di questi ospiti, perché si vede proprio che sono interessati alla cosa, e quando andiamo poi ci pregano di ritornare, mi raccomando, ritornate, perché per loro è veramente un sollievo. Ma generalmente per le feste so che appunto... Mm. Quindi questa è una funzione sociale che evidentemente noi non finiamo mai di sottolineare quanto sia importante così l'empatia, quanto sia importante ricongiungere, riallacciare rapporti tra le varie generazioni. Non possiamo fare altro che quindi ringraziare il nostro plurilingue ospite. Veramente, e anche plurilingue. Qui abbiamo avuto oggi modo di dare questa storie de che altri, in effetti, che sono sempre le storie de no altri. E speriamo che ritorni ancora. Esattamente, lo ringraziamo per la sua disponibilità veramente, e non possiamo fare altro che dire grazie di nuovo e addio piacendo, alla prossima occasione. La ringrazio anch'io e l'aspetto ancora presto, possibilmente. Vi ringrazio tanto. Saluto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Grazie di nuovo. A domenica. Avete ascoltato Storie de Noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.